Salve a tutti, io sono Jasmine, questo è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate dove vi parlo dei classici Disney, ma in realtà oggi continueremo a parlare della collaborazione fra Disney e Pixar con il film Gli Incredibili, rilasciato nel 2004. Il film si ispira al genere dei supereroi, un tema che in realtà non è mai stato trattato dalla Disney, inserendoli però in un nuovo contesto. Il film infatti parla di una famiglia di supereroi, composta da Bob e Helen con i figli Violetta, Flash e Jack-Jack, costretta ad una vita normale, medio borghese, dal governo che non poteva più gestire gli ingenti danni che i supereroi provocavano in città. Bob, dotato di superforza, ha un noioso lavoro da impiegato e, frustrato dalla solita routine, spesso disobbedisce alla legge e sventa piccoli crimini, causando però il licenziamento. Dopo essere stato licenziato, il protagonista trova nella sua valigetta un palmare che gli mostra un videomessaggio di una funzionaria del governo, Mirage, che gli chiede di svolgere una missione segreta. Recarsi in un'isola sperduta e sconfiggere un robot da combattimento sfuggito al controllo umano, ovvero l'Omnidroide 9000. Bob, entusiasta di tornare ai tempi della sua attività da Mister Incredibile, accetta l'incarico e sconfigge il robot. Ma la missione non finisce qui. Mirage, col passare del tempo, continua ad incaricare Bob di sconfiggere altri omnidroidi sempre più potenti, destando i sospetti della moglie. Nella sua ultima missione, Bob scopre che in realtà gli omnidroidi sono robot creati appositamente per uccidere i supereroi, e che il loro produttore è Buddy Pine, soprannominato Syndrome, che ai tempi era un grande fan di Mister Incredibile. Scoperta la sua base segreta, Bob cerca di fuggire, ma viene intrappolato da Mirage stessa, collaboratrice di Syndrome. Nel frattempo, la moglie e i figli di Bob scoprono la sua attività parallela e, localizzandolo, decidono di utilizzare i loro poteri per salvarlo. Dopo vari combattimenti e peripezie, alla fine riescono a neutralizzare Syndrome e a salvare la città, riuscendo a tornare in attività come supereroi, accettando e controllando i loro poteri. L'idea del film prese forma intorno agli anni 90, prendendo spunto da esperienze puramente lavorative. Il tema centrale è appunto la frustrazione del protagonista che non riesce a conciliare la sua natura e la sua passione per l'azione con la famiglia e il lavoro d'ufficio. Il film quindi, uno dei primi per la Disney, completamente basato su problematiche umane ed esseri umani, sarà uno dei più complessi per la casa di produzione e richiederà più di 4 anni di realizzazione. Per questi vari motivi, Disney e Pixar non avevano alte aspettative di riuscita del film, ma fortunatamente al botteghino incassò più di 600 milioni di dollari in tutto il mondo, ottenendo l'Oscar come miglior film d'animazione, e creando piano piano un culto sui film dei supereroi, che vedranno un boom negli anni seguenti. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World, e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.